1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, le 7:18 minuti, anzi 19 minuti, devo mandare subito un abbraccio a Teresa, Teresa da Treviso, che ci scrive poco fa dicendo: buongiorno, questa è sicuramente la mia settimana decisiva, domani me ne vado in pensione, viva Teresa! Ci augura poi a me Azza, tutta la redazione. Tantissimi anni di salute, perché mi dovete pagare la pensione. Grande Teresa, va bene. Lunghissima pensione, lunghissima vita a Teresa da Treviso. Un grande abbraccio, te la sei meritata e quindi evviva. Allora dai, siamo pronti. Qui Peter Vescapè è già pronto, sta mettendo mano al portafoglio, i due urini accantonati subito per Teresa da Treviso. Da domani c'è da pagare la pensione. Viva, dai, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo qui martedì 24 maggio, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata al Fondo Monetario, che dice: bene le riforme italiane, ora ridurre cuneo e debito. Mentre la maggior parte delle aperture dei quotidiani sono sull'Austria, dove alla fine l'ha spuntata il verde van der Bellen contro il responsabile, il rappresentante, l'ultradestra Hofer. L'Austria ferma l'ultradestra, questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica invece l'Austria verde sceglie l'Europa, ultradestra battuta. La Stampa: Austria, luce verde per l'Europa. Per Il Messaggero: sorpresa Austria, stop alla destra. Anche per Il Giorno: Austria, no all'ultradestra. Per L'Unità: il sole che ride, c'è la foto di van der Bellen. Oh, voi italiani non sapete chi era van der Bellen, non sapevate fino a ieri, non lo saprete da domani, però insomma oggi questa è la notizia del giorno. Mentre altri quotidiani, Il Giornale: case dell'INPS in vendita ma Renzi si tiene il malloppo, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Libero: il piano europeo salva banche, vogliono congelare i risparmi. Il Fatto Quotidiano invece insiste sulla questione della Costituzione: sfasciano la nostra Costituzione, incassano pure 500.000 euro, è il business del sì. Avvenire invece: un mondo in fuga, oltre 130 milioni di profughi, dimezzarli si può. È stata aperta a Istanbul la prima conferenza umanitaria dell'ONU. Anche Il Manifesto invece torna su van der Bellen, il raggio verde, questo è il titolo di prima pagina. Voglio partire però dalle ultime notizie dal mondo del calcio malato, almeno così secondo l'inchiesta scoppiata ieri. Il titolo della Gazzetta dello Sport è: Gomorra in campo. Sono stati fatti 10 arresti per 2 partite dell'Avellino, risultate combinate secondo la Procura di Napoli, anno 2013-2014. Le partite truccate in Serie B. Indagato anche l'azzurro Izzo, è il nome più famoso, è colui che ha fatto parte anche della nazionale di Conte per uno stage, diciamo così. È la Gomorra del calcio, è il titolo di Repubblica. Le mani dei clan napoletani sulle scommesse, 2 match nel mirino. Come racconta Dario Del Porto a pagina 16, la Gomorra del pallone, con il clan della nuova Vinella Grassi di Secondigliano, cioè quei cattivi ragazzi che meno di un mese fa hanno bersagliato a colpi di mitra la caserma dei carabinieri e che ora avevano messo le mani sulle scommesse del mondo del calcio. Nell'ultima inchiesta spunta anche il nome di un giocatore del giro della nazionale, difensore dell'ex Avellino, oggi al Genoa. Si tratta appunto di Armando Izzo. Allora, tra l'altro, su Izzo c'è un ritratto di Fulvio Buffi sul Corriere della Sera, da Scampia a Coverciano. Coverciano è dove si allena la nazionale italiana. È un ritratto, devo dire, lo trovate a pagina 18 del Corriere della Sera, abbastanza emblematico. Fulvio Buffi racconta la storia di Armando Izzo, partito appunto da Scampia. un posto che non perdona, lo è anche il rione dei fiori di Secondigliano, quello che chiamano il terzo mondo, lo è via Vanella Grassi, che sarebbe una strada e basta, ma ora è il nome di un clan storpiato con Vanella che diventa Vinella, ma insomma non è più una minuscola traversa di un quartiere di periferia che una volta la conosceva solo chi ci abitava. E Armando Izzola conosceva e conosceva i ragazzi che da quella stradina sono partiti per andare 500 metri più in là a fare i morti, come dicono quelli che combattono una guerra per la droga. Anzi, secondo alcune testimonianze, nel periodo 2007-2009 Izzo Armando non voleva più giocare a pallone e voleva affiliarsi con noi della Vinella Grassi, ma noi ritenemmo importante per lui che giocasse a pallone. Un altro collaboratore, racconta, voleva diventare un affiliato della Vinella Grassi. Aveva un cugino nel clan e voleva fare il suo ragazzo, affiancarlo in attività criminali. Ma dal carcere il capoclan Armando Petriccione, padre di Gaetano, zio acquisito di Armando, non diene il bedestare. Fece giungere al figlio un'ambasciata dicendo che Armando aveva un talento come giocatore e doveva seguire quella vocazione. Insomma, questo è il ritratto, il racconto anche di una infanzia, un'adolescenza effettivamente travagliata secondo queste testimonianze. Lui dice: io non c'entro nulla con questa vicenda, ma insomma ancora una volta il mondo del calcio che torna al centro dell'attenzione per quella che viene definita ora, vista anche la serie di grande successo che è in onda su Sky, la Gomorra nel calcio. Staremo a vedere. Mentre vi ricordate la vicenda di Licata, di cui ci siamo occupati invitando il sindaco Cambiano, che è finito sotto scorta perché vuole abbattere le case abusive, gli hanno incendiato la casa del padre. E Felice Cavallaro torna sul Corriere della Sera a raccontare ancora una nuova puntata non edificante, a pagina 19, nuova rivolta contro le ruspe antiabusivi. Aggredito un commissario, 5 arresti. Dopo le manifestazioni contro le demolizioni delle case abusive, dopo lo striminzito presidio di solidarietà al sindaco Angelo Cambiano, che fa muovere le ruspe, Licata è diventata ieri teatro di uno scontro tra abitanti decisi a difendere le loro mura e poliziotti in assetto antisommossa. Prima il blocco stradale, poi i materassi, chi ha messo la credenza al tavolo, le sedie per non far passare le ruspe, infine i tafferugli, un pugno in faccia al commissario Marco Alletto, una donna a terra con un bernoccolo in testa, un sospetto infarto per il proprietario di una delle case abbattute, Francesco Vitali, barista di 51 anni. Insomma, un bilancio doloroso con 4 feriti, 5 fermati, compreso il figlio dell'irruente difensore dell'immobile, Angelo Vitali, manette ai polsi. Cova, insomma, aria di rivolta in provincia di Agrigento. Questo succede e noi dobbiamo, secondo me, tenere accesa i riflettori, tenere alta l'attenzione, perché è una storia, se volete, di una località, ma è una storia emblematica dell'Italia, io credo. Licata, in provincia di Agrigento, è quello che sta succedendo lì. Mentre io ho trovato questa notizia su Repubblica che mi ha fatto letteralmente imbufalire. Sapete che io... No, e non lo dico in polemica con nessuno, per carità, c'è la par condicio, eccetera, ma ritengo che una città come Milano, metropolitana, sede dell'Expo, dove io alle 5:30 del mattino sono obbligato, ripeto, obbligato, e non fatemi la morale, obbligato, lo dico per la terza volta, a prendere la macchina o il motorino, perché la metropolitana non va a quell'ora. E prendetevi voi un mezzo sostitutivo, ve l'ho detto mille volte, con la gente abbarbicata sul tetto come nella celebre scena del film di Fantozzi. Una città moderna, metropolitana, mondiale. Londra, eccola qui la notizia che mi ha fatto imbestialire. Londra, su Repubblica, la metro non si ferma più. Da agosto viaggerà 24 ore su 24. La capitale inglese, come New York, peraltro, si parte con 2 linee. Central e Victoria. All'inizio corse di notte nel fine settimana. Va bene, si inizia così, nel fine settimana. ma presto l'iniziativa si potrebbe allargare. Questa è una città moderna, internazionale, se si vuole, metropolitana, se la si vuole definire così. E invece da noi la metropolitana inizia lentamente così a muoversi attorno alle 6. E se io prendessi la metropolitana dovrei iniziare la trasmissione alle 7:30, 8:15, così, con lentamente. E quindi devo prendere la macchina, vi ingolfo il traffico, vi lamentate, inquino, e va bene, andiamo avanti così. D'altronde, in qualche modo, adesso ci saranno quelli, ma dai, fai una passeggiatina, ma sì, di 9 chilometri per arrivare... Adesso divento maratoneta e parto alle 3:30 di notte per andare a lavorare. Va bene tutto. Ma siamo qui, eccoci all'articolo che mi fa pensare della giornata, che non è questo di Londra. Non è questo di Londra. Ce n'è un altro sul giornale. Cristina Bassi racconta la storia, pagina 18, del giudice che perdona il No Expo. Ecco, a proposito di No Expo, ricordate gli scontri, il corteo del 1° maggio 2015. Assolto! Un tedesco, Daniel Frank Steinmetz, al quale erano stati trovati in macchina bastoni, una tanica d'olio per motore, vabbè, è questo, estintore, vabbè, tanica da 5 litri di benzina, 13 paia di guanti, vabbè, bottiglie di birra vuote, vanga da campeggio, 2 attrezzi da giardinaggio, imbuti, chiave inglese, cappello di lana. Insomma, tutti strumenti, 3 punteruoli con manico in acciaio, secondo la procura, servivano a fare delle bombe Molotov. Ma il giudice ha detto non c'erano gli stoppini. Non c'erano gli stoppini. Peter Scapè, non guardarmi così. Non c'erano gli stoppini. Assolto tedesco, accusato di avere materiale esplodente perché in auto aveva bottiglie, benzina, bastoni, punteruoli, ma gli stoppini no! Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, o sciuba femmina dell'informazione! Ma che, allora, siamo qui, sono le 7:35 minuti. Sì, eccoli i suggerimenti. E prendi il taxi è la migliore. Cioè, sì, perché io devo spendere 20 euro più o meno, hai capito? 20 euro al giorno, così devo spenderli per andare a lavorare, perché non ci sono i mezzi pubblici e quindi devo... La bicicletta, anche molti la bicicletta. Va bene, la bicicletta, per Milano. Poi una volta parto, la seconda volta parto, la terza non... Vengo stirato dal primo... Reduce della movida milanese attorno al cimitero monumentale. Va bene, così sono già direttamente lì. Comunque va bene, dai, datemi suggerimenti, a piedi, in bicicletta, per venire a lavorare alle 5 del mattino. Evviva! Allora, d'altronde, cari ascoltatori, se uno legge i giornali, io proporrei una tregua. Se potessi, metterei in un gruppo Bilderberg tutti i direttori di giornali e gli chiederei loro una piccola tregua, perché se il clima è questo, non arriviamo a ottobre al referendum. Se ora si dedicano 4-5 pagine chiedendosi cosa voterà l'ANPI, cosa non voterà l'ANPI, chi sono i partigiani veri e chi sono i partigiani falsi, esistono quelli veri, esistono quelli falsi, cosa voterà Garibaldi, cosa voterebbe Giolitti e Cavour, ecco, se questo è il clima non ci arriviamo. Però per il momento devo dire che ascoltano evidentemente poco, l'agenda politica è dettata da questo e ci sono paginate ancora oggi sulla tematica la presunta o vera gaffe del ministro Boschi sui veri partigiani votano sì al referendum e Renzi che ieri la difende dicendo nessuna gaffe rispetto ai partigiani. Renzi, insomma, che spegne la polemica sui partigiani, arruola 184 professori per il sì. Tra l'altro, nel consueto retroscena di Maria Teresa Meli a pagina 8 del Corriere, Renzi dice questi sono i primi e poi arriveranno gli economisti, gli altri, una marea di nomi, una marea di adesioni, ma a voi giornalisti interessa solo il nome del presidente del sì, che non ci sarà. Poi Renzi neanche solitamente, come al solito, per la sinistra Dem, vale a dire l'opposizione all'interno del partito, dice ai suoi collaboratori: in fondo fanno il loro lavoro, sanno che o mi fanno cadere adesso o non potranno farlo mai più. Poveretti, che devono fare dal momento che non hanno un'alternativa politica. Questo Renzi sulla sinistra Dem nel partito. C'è da dire che quando Renzi dice non ci sarà un presidente del comitato per il sì, il Fatto Quotidiano però fa un nome e racconta una storia con Wanda Marra a pagina 2. La storia è questa: il 13 maggio un gruppo di 12 cittadini non meglio identificati, ma tutti ovviamente muniti di documenti, sono stati ricevuti presso la Cassazione per richiedere il referendum costituzionale, promuovendo la raccolta di almeno 500.000 firme. Il gruppetto ha eletto domicilio presso Maurizio Chiocchetti in via Flaminia 838 a Roma. Eccola, è l'unica traccia formale del comitato per il sì. Annunciato da Renzi settimane fa, ancora non esiste, c'è solo la richiesta di Chiocchetti e il sito Basta un sì. E racconta il Fatto Quotidiano che se si raccoglieranno 500.000 firme arriveranno anche 500.000 euro. Il PD fa il comitatino per avere i rimborsi, questo è il titolo. 10 giorni fa la richiesta in Cassazione, firma il cittadino Chiocchetti e così anche i Dem avranno accesso ai 500.000 euro, così come chi raccoglie le firme per il no, ovviamente. In questo dibattito ieri ancora l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è intervenuto dicendo: mi sento profondamente offeso e mi reca un'offesa profonda chi dice io difendo la Costituzione votando no e gli altri non lo fanno. Insomma, Napolitano, mi offende chi dice che non tutelo la Carta. Tra l'altro, a proposito della questione dell'Ampi, parla il presidente Smuraglia, Carlo Smuraglia, 92 anni, ex partigiano combattente, secondo la nuova dicitura si dovrebbe dire dunque partigiano vero. A pagina 10 del Corriere della Sera il presidente Smuraglia dice: nessuna sanzione. I nostri associati possono votare come vogliono. Solo che il 21 gennaio il Comitato Nazionale dell'Ampi ha deciso di aderire alla campagna referendaria dopo 2 anni di ragionamenti a riprova che non c'è rigidità da parte nostra. E i limiti del dissenso sono questi: ogni iscritto è libero di esprimersi e votare come vuole, ma non fare atti contrari alle deliberazioni del Comitato Nazionale. Dunque, ognuno può votare come vuole, ma non si possono organizzare comitati per il sì all'interno dell'Ampi. Questa è la posizione ufficiale dell'Ampi, parla Carlo Smuraglia sul Corriere della Sera. Sulla questione referendum interviene anche Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, che, intervistato da Dario Di Vico a pagina 9 del Corriere della Sera, dice: spero che il referendum passi, serve l'impegno degli industriali. E dunque in qualche modo parla, dov'è la domanda precisa? Eccolo qua. L'Italia ha provato per ben 5 volte a riformare la Costituzione e non ci siamo riusciti, dice Gianfelice Rocca nel suo ufficio di Assolombarda. Per questo spero proprio che al referendum costituzionale prevalga il sì e penso che gli industriali dovrebbero impegnarsi in questo senso. Aggiunge poi Rocca: certo siamo delusi dall'uso che è stato fatto del federalismo e dalle classi politiche regionali, ma insisto, non basta riaccentrare. Penso alla sanità, settore in cui i risultati straordinari sono venuti dalle regioni, e non dico solo Lombardia ma anche Emilia. Il guaio è che non siamo riusciti a mettere a fattor comune queste best practice. Il protagonismo dei territori non può essere derubricato, serve a sperimentare e vale per università, centri di ricerca, città metropolitane. Ripeto, questa è la situazione. Ovviamente il tema è che la campagna sarà sempre più battente fino a ottobre. Speriamo davvero, io spero, in una situazione un po' di pressione mitigata. Si parli anche di altre cose, per esempio tra poco il 5 giugno si vota alle amministrative in importanti città. A proposito di 5 giugno, credo proprio che il Movimento 5 Stelle non sia così ingenuo da espellere, se vorranno farlo, Pizzarotti di Parma prima di quel voto, prima di quel giorno. Anche perché Pizzarotti in qualche modo ha sfidato il Movimento, ha mandato le controdeduzioni, come ci ha detto 48 un venerdì scorso, qualche giorno fa, ospite qui a 24 mattino, e tra l'altro ora si vocifera di un possibile reintegro, comunque di una mancata espulsione. Sarei felicissimo di rimanere nel Movimento 5 Stelle, dice Pizzarotti, che però dice no a Casaleggio Junior. Vedrei il direttore in streaming, ma non Casaleggio. Che cosa mi rappresenta? Questa è la frase che ha detto Pizzarotti, e quindi le ruggini evidentemente continuano. Staremo a vedere come va a finire questa vicenda. Tra l'altro, alla vicenda Movimento 5 Stelle è dedicato il buongiorno di Massimo Gramellini. Multe nei paraggi, quello che è successo ieri a Roma, come in una gag di Alberto Sordi, l'iniziativa elettorale dei 5 Stelle romani con la candidata sindaca Virginia Raggi è in pieno svolgimento e al microfono un parlamentare si scaglia contro il malcostume dilagante quando si alza una voce. Ci sono i vigili! Stanno facendo le multe! Momenti di panico in platea. Chiunque abbia parcheggiato sul marciapiede corre in strada per salvare il salvabile. Gli altri danno fiato alla specialità della casa. Perché sono arrivati proprio adesso? Sottinteso li ha mandati il governo, la massoneria, la CIA. D'altronde un delatore comune si sarebbe limitato a dare la notizia. Attenzione, caduta vigili! Mentre nell'allarme lanciato dalla piccola vedetta grillina, chi li ha chiamati era già inglobato il sospetto del complotto. Meglio parcheggiare in doppia fila che arrivare con l'auto blu, sentenzia sul web il malpancista medio, al quale sta a cuore l'abbattimento dei privilegi altrui più che il rispetto delle regole. Il ragionamento non fa una grinza, però sottovaluta le aspettative che le vestali della purezza e i paladini dell'onestà avevano suscitato in noi peccatori. Mai avremmo creduto che anche loro potessero inciampare su un'infrazione diffusa tra i comuni mortali. Ed è consolante scoprire che i migliori sono esseri umani come noi. Per esempio, vi presento colui che mette sempre la macchina in divieto di sosta, è Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, ma io tra l'altro vado anche spesso al lavoro con i mezzi pubblici. Adesso non vorrei rinfocolare. Sì, sì. A che ora ti svegli? Puoi rendere l'uditorio noto di più tardi e quindi. Tipo? No, mi sveglio per tempo per poter chiacchierare con te. Dici, fai sapere a che ora ti svegli, dai. Posso salutare Teresa da Treviso invece, che sì, si è anche fatto così uno sberleffo, sì, dicendo che lei se ne va in pensione. E tu la paghi, e io la pago. No, vabbè, la pago volentieri, è stata molto simpatica. Vabbè, ma dicevamo, a che ora ti svegli, Mauro? No, verso le 6:30 più o meno. Non so quanto questo possa interessare agli ascoltatori, vabbè, invece interesserà un po' di più il fatto che oggi su Sole 24 Ore spieghiamo, stando appunto in argomento, in area Teresa per così dire, che si sta prendendo un po' forma questa APE, l'APE, certo. L'anticipo pensione, perché così Teresa potrà trovare qualche altro pensionato magari anticipato. Oggi primo incontro governo sindacati, si parla di penalità medie del 3-4% all'anno per anticipare di 3 anni, si parla di 3 anni, il momento della pensione, e questo per quanto riguarda la parte italiana. Poi invece ci sarebbe da dare ancora dei soldi alla Grecia. Sì. Oggi c'è un Eurogruppo, ci sarebbe 11 miliardi, quanto puoi mettere Alessandro? Dunque, 11 miliardi solo per questa prima tranche. Dunque, poi ce ne sono degli altri. Adesso faccio un attimo due conti. I soliti 2 euro, va bene. Allora, visto che andiamo a parlare di soldi, ricordati che oggi è martedì e con il Sole 24 Ore trovi i tuoi soldi, certo, nel senso non dei tuoi 2 eurini, ma della collana che stiamo pubblicando appunto con le nozioni di base, quest'oggi tra l'altro proprio nozioni di base per il risparmio e gli investimenti, allegato al Sole 24 Ore in edicola, non cercarmelo al bar come al solito. Siccome poi oggi è sempre martedì, ed è martedì anche ora, ebbene c'è la pagina di condominio. Non scrivere nelle lettere cose ingiuriose per l'amministratore, perché si configura la diffamazione. Mi raccomando, sii composto e educato anche se hai da lamentarsi dell'amministratore. È andata male a un condomino che gli aveva dato del mentecatto, che è un insulto che mi pareva un po' desueto e ricercato, però gli ha dato del mentecatto ed è diffamazione. Tra le molte altre cose, prendi nota, domani con il Sole 24 Ore, un instant book, bonus per la casa, per ristrutturare casa, tutti gli sconti fiscali che ci sono per ristrutturare casa, domani con il Sole 24 Ore. Hai preso nota? Ho preso nota. Ecco, invece un po' dopo il termine di domani, ma insomma si spera, rapidamente dovremmo recuperare il ritardo su Germania, Stati Uniti e altri, in materia di industria 4.0. Tu sai cos'è l'industria 4.0? No, ma lo scoprirò oggi sul Sole, credo. Bravissimo, bravo, è una bella risposta. Questa sembrava quasi un po' preparata. Abbastanza. Comunque, però sai che qua, caro Mauro, mi suggeriscono delle cose impensabili. Il telelavoro va bene. Vai con un drone, il roller, il teletrasporto, il paracadute. Molti dicono prendi un cavallo. Un cavallo, certo, poi parcheggiamo un cavallo davanti alla sede. Che fatti accompagnare da Peter Bescapè, fatti passare a prendere da Peter Bescapè, ma anche chi suggerisce fatti portare dalle mignotte che finiscono il turno di lavoro. Va bene, c'è di tutto. Su questo, c'è di tutto. Guarda, avrei molte altre cose da segnalarti, ma per evitare di precipitare in un gorgo di cui non si vede poi l'uscita, a questo punto io mi fermerei e naturalmente, annunciandoti che presto avrai gli SMS che ti ricordano le scadenze fiscali, lo ha detto ieri il Presidente del Consiglio, sì, leggi norme e tributi religiosamente. E per ora, caro Alessandro, quello che tu conosci bene già dalla mattina presto, il traffico! Alessandro Milan, il caccia imperiale dell'informazione! Ma straordinario, ma chi è questo piccolo genietto che ci manda al 349-238-6666 una bella sigla? Mi suggeriscono la mongolfiera che sfrutta le correnti, speriamo che tiri il vento verso la sede del Sole 24 Ore, se no va bene per venire a lavorare, la mongolfiera o la bici elettrica. Allora, cari ascoltatori, tutti ci riscopriamo a seguire le vicende austriache. L'Europa che elegge in Austria come nuovo presidente Van der Bellen, ecologista. Vittorio Darold racconta, pagina 7 del Sole 24 Ore, che cosa significa questo anche per l'Europa, un'Europa sempre più divisa. Per un pugno di voti diventa presidente l'ecologista Van der Bellen grazie agli elettori espatriati. Mancavano infatti all'appello gli 885.000 voti inviati per corrispondenza, tradizionalmente favorevole alla sinistra, e in una situazione di sostanziale parità Van der Bellen ha vinto con uno scarto di, pensate, soli 31.000 voti. E ha detto Hofer, cioè il paladino dell'FBO, l'ultradestra, oggi è un giorno triste, mi sarebbe piaciuto prendermi cura di questo bel paese, vi resterò comunque fedele. Che cosa significa questo? C'è anche un bel ritratto di chi sia Sasha il Verde, così è chiamato, presidente austriaco, 72 anni, europeista convinto, figlio di un padre russo e di una madre estone, fuggiti dalla rivoluzione bolscevica, campione di multiculturalismo. Questo nel ritratto di Vittorio Darold. Cosa significa questo anche per l'Europa? Tutti i giornali italiani, insomma, lo declinano anche con lo stop alla destra che proviene dall'Austria. Va bene, siamo in rapida conclusione. Vi segnalo per la cronaca che ci sono verranno dati 36 ore di permesso premio a Rudy Ghede, colui che è in carcere, l'unico che è in carcere per condanna definitiva per l'omicidio di Meredith Kercher. Ghede esce dal carcere, permesso premio di 36 ore, il giorno dedica una pagina al caso Perugia, con l'unico condannato che sta scontando 16 anni e Raffaele Sollecito che lo attacca dicendo si penta. Una pagina dedicata a questo. Mentre una pagina, una delle più straordinarie di oggi, dedicata al secolo XIX, all'occupazione dell'Università di Scienze Politiche. Basta le occupazioni! Basta questa volta ad occupare l'Università di Scienze Politiche a Genova con intervento del prefetto. Il blitz sono 4 cinghiali, anzi sono un po' di più di 4 cinghiali, perché quando è scattato il blitz 4 sono fuggiti e non se ne può più. C'è, secondo alcuni, gli estremi per presentare un esposto per interruzione di pubblico servizio. I cinghiali dell'Università di Genova. L'esasperazione per questi ungulati nei quartieri della cultura genovese, non se ne vanno via. Ma a proposito di animali, la carta costa è dedicata proprio a questo. Pagina 16 di Libero. Troppi cibi umani e cani e gatti sono malati di diabete. E io dico ai padroni: cretini, cretini, cretini! Ma chi se ne frega!